Mix 24 di Giovanni Minoli. Comune si interessa solo al momento di quando può succedere qualche guardo. Un omicidio che viene fuori una scuola materna, il massacro di un ragazzo innocente, una faida che non si ferma. Questi sono gli argomenti, i temi che accendono luce su Scampia. Io sto vedendo delle cose molto gravi nella nostra città. La presenza della Valente in prefettura con il presidente del consiglio per fare campagna elettorale. Questa cosa di Bagnoli che è enorme. La più grande operazione ambientale della storia d'Italia. Non sentita sta città. Valeria Valente, candidata a sindaco del PD a Napoli, buongiorno. Buongiorno. Ecco, la pensava così dura la vita del candidato sindaco? Un po' sì. Sì, se l'aspettava. Un po' sì. Ma quali sono tra i tanti attacchi quelli che la feriscono di più? Ma forse quelli che ti danno già in qualche modo, no, per sconfitta, la lettura di qualche sondaggio un po' frettolosa, e forse quelli di amici che hanno conosciuto il mio trascorso, anche che conoscono la mia storia e provano a infangarla soltanto per ragioni di tipo elettorale. Senta, adesso nella sua maggioranza a darle una mano è entrato Verdini, lei è soddisfatta? Ma io ho detto a Verdini, come a tutte le altre forze politiche, per me se c'è convergenza sui nostri programmi e se, come abbiamo chiesto a tutti gli altri, ci sono persone specchiate, oneste, abbiamo detto nessun indagato nelle nostre liste, non ho alcun pregiudizio verso alcuna forza politica. Quindi Verdini non è un problema per lei? Assolutamente no. Senta, ma darle una mano a Napoli è venuta Maria Elena Boschi, però non è stato un successo. Perché? No, perché non è stato un successo? Era una sala strapiena, c'erano tante persone, noi in quella circostanza abbiamo registrato tanto entusiasmo. In ogni caso credo che sia normale anche che in una campagna elettorale le persone guardano innanzitutto a quello che dice il proprio candidato a sindaco. Certo, quindi naturale. Forse l'attenzione era più su di lei, più su di lei. Senta, a Napoli per il 25 aprile è sembrato che ci fosse uno scontro tra politici e popolo. È un'impressione solo dei media oppure è vero? No, più che un'impressione dei media è un racconto dei media che non hanno guardato forse bene a quella che era quella piazza. La piazza del 25 aprile c'erano 200 persone in tutto in piazza ed era capeggiata da gruppi antagonisti, dei centri sociali. Si trattava di una trentina, quarantina di persone. Io credo che quella piazza ha poco a che vedere con la storia e i valori del 25 aprile. Quindi molto politicizzata. Molto politicizzata. Senta, onorevole Valente, ma Cantone dice che ormai a Napoli la criminalità è così organizzata che risolve tutti i problemi lei. Lei cosa pensa? Penso che è lo Stato che deve fare un passo avanti, perché se lo Stato fa un passo avanti la criminalità è costretta a farne un indietro. Se lo Stato ne fa uno indietro o due indietro, la criminalità rischia di farne. Però quella di Cantone è un'analisi davvero scoraggiante. No, io credo che sia, la voglio vedere invece come un invito allo Stato, a tutte le articolazioni dello Stato, quindi Parlamento, Governo, istituzioni locali, scuole, forze dell'ordine, a fare qualche passo in più avanti. La voglio leggere almeno come un incitamento a dire fate di più. Senta, ma dopo la vittoria alle primarie, lei ha sentito Bassolino? L'ho sentito una volta, ci siamo anche incontrati, c'è stata una lunga chiacchierata, mi sembrava una chiacchierata positiva. Cioè, quindi avrà il suo appoggio, avrà l'appoggio di Bassolino? Lui ha detto che vota PD. Quindi vota per lei? Sì, le dà una mano, insomma, contro De Magistris. Ecco, che cosa ha sbagliato di più De Magistris, secondo lei, che la fa sperare? Ha condannato Napoli all'immobilismo e all'isolamento. A Napoli non c'è stato nessun passo in avanti in questi anni, non c'è stato un solo problema risolto, non c'è stato un solo risultato strutturale lasciato alla città. E ha aperto conflitti su tutti i fronti e Napoli da sola non ce la può fare. Ha aperto conflitto con le altre istituzioni, ha aperto conflitto con le forze sane imprenditoriali e economiche di questa città. Infatti questo non è entrato nella cabina di regia di Bagnoli, è un errore? Un gravissimo errore, dopo 20 anni o forse anche più. finalmente Bagnoli riparte, bisogna semplicemente rimboccarsi le maniche e dare una mano. Ma perché ha una responsabilità lui sull'immobilismo di Bagnoli? Assolutamente sì, ha determinato il fallimento del Bagnoli Futura in nome di qualche principio astratto ideologico e populista del chi inquina paga, ha determinato che quella società fallisse. Senta, comunque lo diceva lei, i sondaggi a cui non so se quanto crede danno un testa a testa fra De Magistris e Lettieri, lei terza. Ci crede lei ai sondaggi? Ma no, immagino. Tanto quegli stessi sondaggi danno la mia coalizione avanti a quella di Lettieri. Quindi è un problema di notorietà tra me e Lettieri. Io sono arrivata soltanto da poco, Lettieri è in campo da 5 anni, semmai anche con qualche risorsa in più disponendone, quindi è in campagna elettorale da un bel po'. Mi interessa il recupero che ho visto in questi giorni, io recupero molto, recupero anche un po' Lettieri, De Magistris scende, quindi secondo me la partita è aperta, visto che le mie liste sono davanti a quelle di Lettieri. Senta, Renzi ha detto, quando è venuto a Napoli, e contestato appunto la sua presenza, De Magistris l'ha contestata, Renzi dice che con Bagnoli non riparte solo Napoli ma tutto il sud, non è un po' troppo? Ma direi di no, intanto su Bagnoli si sperimenta un modello che è quello di un più grande risanamento ambientale della storia di questi ultimi anni, con un processo di sviluppo virtuoso, quindi intanto secondo me è un modello, e se noi pensiamo solo che quello stesso modello può essere esportato in altre parti della città, penso a Napoli Est, ma anche allo stesso centro. Vabbè, quindi è ottimista lei su questa cosa. Senta, un'ultimissima domanda, onorevole Valente, se lei dovesse dire una cosa fatta nel suo passato politico che può convincere a votarla, una cosa che ha fatto di cui è fiera, una. Ma dico, una casa di accoglienza a Napoli per le donne maltrattate era una chimera per l'amministrazione comunale. Si diceva che non ce l'avremmo mai fatta, noi l'abbiamo aperta. Bene, grazie, auguri. 800 24 00 24, numero verde 348 238 6666, l'SMS. Mi chiamo Lisa, vivo a Napoli ma sono nata a Milano. Ho 2 figli, 34 anni, e sono al mio 34esimo colloquio di lavoro. E mio marito è morto da 6 mesi. Perché hai denominato sul braccio? La gente si tatua i nomi dei figli, hai dei figli tu? No. Non posso avere collaboratrici con figli, i figli sono un problema. Si ammalano, fanno recite scolastiche, vogliono essere sfamati. Tu hai dei figli da sfamare? Una laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti 10 anni fa. Corsi di approfondimento, qualche mese di praticantato. Parliamoci chiaro. Niente. Cosa hai fatto veramente in questi anni dopo che ti sei trasferita a Napoli? Hai viaggiato? Hai fatto delle esperienze? Cercato te stessa in Tibet? Veramente ho fatto 2 figli. E sono vivi? Era Vanessa Incontrada nella nuova fiction Non dirlo al mio capo in onda su Rai 1. L'interpreta Lisa, una donna costretta a nascondere il fatto di essere madre per poter lavorare. Non solo fiction, ma un problema reale per molte donne alla ricerca di un posto di lavoro, soprattutto in momenti di crisi come questi. Paola Filippini, a 28 anni, fotografa di Mestre, ha pubblicato su Facebook un suo colloquio di lavoro e la storia è diventata virale. Sentiamo alcuni passaggi, poi parleremo con lei. Mi fa accomodare alla sua scrivania, ma non si presenta, non mi dà la mano, non si scusa del ritardo, mi dà del tu. Questa cosa mi dà fastidio, ma anche qui passo oltre. Prendo un foglio prestampato, questionario informativo, c'è scritto. Inizia con le domande. Lui, dove vivi? Io, risiedo a Mestre. Lui, ok, stato civile. Io, in che senso? Oh no, sento già lo stomaco chiudersi. Lui, sei sposata? Convivi? Hai figli? Io, respiro. È necessario che io risponda a questa domanda? Lui, sì, è necessario. Si sta agitando. Io, posso non rispondere? Lui, certo, allora ti puoi anche accomodare fuori. Per me il colloquio finisce qui. Ecco, Paola Filippini, buongiorno. Questi erano alcuni passaggi della sua esperienza che lei ha pubblicato su Facebook. Ecco, ma perché non ha voluto rispondere alla domanda sullo stato civile? Era così invasiva? Ma in realtà io ho esercitato il mio diritto, perché è un mio diritto non rispondere e non dare informazioni circa la mia sfera privata, sia durante in sede di colloquio di lavoro, sia anche durante il rapporto lavorativo. Perché è offensivo cercando... sapere se lei ha dei sì, figli. Sì, perché se io sono qui per cercare lavoro, preferisco che mi venga chiesto che cosa so fare, quali sono le mie esperienze, piuttosto che... Ma questo era l'inizio del colloquio? Sì, sì, sì. Sono state le prime domande, magari cosa aveva fatto, può darsi che lui lo chiedeva dopo, non lo so io. E invece mi ha mandato fuori perché io non ho voluto rispondere se avevo figlio o se ero sposata, perché sono stanca che ci vengano sempre chieste le stesse domande. Senta, ma un datore... alle quali noi abbiamo diritto di non rispondere, ci tengo a sottolineare questa cosa. Lei dice che è illegale, però in realtà l'articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori, che è quello a cui mi sembra lei fa riferimento, parla di fatti non rilevanti ai fini della valutazione. Ma i figli perché non sono rilevanti nella valutazione di un posto di lavoro? Possono essere rilevanti. Che possono avere a che fare con la disponibilità, trasferto, orari più lunghi. Sì. Insomma, diciamo, io non lo so il tono com'era, se era come l'abbiamo riportato noi, certo non era gentile, però andando nel merito, sì, no? Però io parto da una condizione molto semplice, molto molto semplice. Se io sono qui e sono venuta da lei a fare un colloquio di lavoro, perché lei sta facendo un'offerta e io sto cercando, se sono qua è perché ho bisogno. È perché so che lo posso fare. È una domanda magari mal posta, ma non tragica. Io voglio dire, dei figli possono essere rilevanti nella valutazione, perché magari io non lo so che tipo di lavoro era, però insomma, forse il tono era molto sgradevole, ma la reazione è anche... Beh, diciamo che questo mio è stato forse un caso un po' estremo, visto sono stata messa alla porta immediatamente. Questo è il punto, che questo mi sembra il punto più importante, che la domanda sui figli... Sì, questo è stato, vabbè, ma questo è un caso un po' estremo. Diciamo molto che però, estremo, perché essere diciamo che però buttati questo... fuori dopo due domande, anche se l'avesse chiesto solo il nome, e lei avesse detto il nome in modo che non gli piaceva, se la buttava fuori, questo ovviamente è senza senso. Tuttavia, quello che mi è successo ha poi avuto un riscontro anche con molte altre persone che si sono trovate d'accordo dicendo ok, è ora che si smetta di chiedere sempre ai colloqui alle donne se hanno figli e si sono sposate, eccetera, perché non è rilevante. Su Facebook, qual è il dato che le ha dato più fastidio, che le ha fatto più male, diciamo, in qualche modo, delle reazioni? Quelle di solidarietà immagino le abbiano fatto piacere, ma quelle invece... le critiche? Come ha risposto alle critiche delle donne? Ma no, ma perché ci sono state anche delle donne che mi hanno detto vabbè, ma io sono orgogliosa, io lo scrivo anche nel curriculum che ho 4 figli. Certo. Beh, brava, ma non è... Ma secondo me sbagli. Non sarebbe una battaglia positiva, anzi, di crescita, quella di poter affermare tranquillamente io sono sposato, ho 4 figli, e beh, sono capace, so 4 lingue, so fare questo, so fare quello. Mi sembrerebbe un di più, non un di meno. Sì, può essere un di più, ma vabbè, non deve essere un fattore determinante. Se io ho le competenze, ma siccome ho 2 figli non mi vuoi dare il lavoro, questo no, ma è quello, un grosso fallimento. Naturalmente, ma a quello non ci siamo arrivati, perché dopo 2 domande l'ha mandata via, quindi quello è stato il limite del colloquio. Senta, ma oggi si è pentita di non aver risposto oppure lo rifarebbe uguale? No, lo rifarei tutta la vita. Vabbè, grazie, auguri allora, buon lavoro, grazie. Grazie, certamente è un caso estremo, ma in momenti di crisi anche un colloquio di lavoro, il nome al colloquio di lavoro può diventare un problema. Mario, è lecito oppure è stata un po' una forzatura questa, secondo te? Ma allora, messa così mi sembra un po' forzata. Posso aggiungere una cosa? Se l'ha mandata via dopo domande, chiaro, quello è l'episodio, però, lui è proprio lasciato inqualificabile. Però posso dire una cosa? Io se faccio un colloquio di lavoro e una signora... E tu ne fai tanti perché c'è un'azienda? E se una signora mi dice che è mamma, io la assumo subito, perché significa che ha figli e quindi capacità manageriali superiori. Voglio vedere io. Tu Pietrangelo? Intanto già è una notizia che ci siano ancora colloqui di lavoro. Prendiamo la parte positiva. A un uomo il problema sarebbe stato lo stesso, sì. Per un uomo? No, perché vedo che i nostri ascoltatori reagiscono molti, chi a favore, chi contro, insomma. Interessante. E sappiamo che nei colloqui di lavoro vista la scarsezza dei colloqui di lavoro, è sempre più urgente arrangiarsi. In qualche modo arrangiarsi. E quindi il fondamento vero è quello che una volta magnificò Totò in un film, è solo l'arte di arrangiarsi. Se, fatto sta che i dati sulla disoccupazione obiettivamente parlano chiaro, quella femminile secondo i dati Istat si attesta al 50%, quella maschile meno del 30%, e ci sono ambiti lavorativi come ad esempio quello informatico, dove la percentuale di uomini è nettamente più alta rispetto a quella in tutto il mondo. Sì. E ti assicuro che trovare programmatrici donne è difficile. Noi abbiamo noi abbiamo con noi al telefono Giulia Decina, che è esperta di marketing e di comunicazione digitale, lavora in una multinazionale che si occupa di prodotti di largo consumo, ma soprattutto è presidente del Girl Gink Dinners, un movimento internazionale che ha come scopo quello di fare rete, di conoscere, per aiutare le donne che lavorano soprattutto nell'informatica. Ecco Giulio, in che modo? Facendo rete, facendo gruppo. Questo è, diciamo, l'aspetto fondamentale sul quale vogliamo puntare, il valore, diciamo, che vogliamo amplificare, ovvero fare rete tra donne, perché la cosa più importante è capire di appartenere sì al genere femminile, ma questo vuol dire anche sensibilizzare ciascuna di noi sui valori e la responsabilità che una donna ha anche di salvaguardare i propri diritti, quindi andare contro la discriminazione che ci può essere anche a livello del settore tecnologico, lavoro. Ecco, parliamo del settore tecnologico. Voi vi occupate di solidarietà tra donne in genere, l'hai detto, oppure in un campo particolare del mondo lavorativo? Noi ci occupiamo della discriminazione e partiamo da un valore che è appunto generico, quindi andiamo contro la discriminazione generale, prendendo come esempio l'aspetto del settore tecnologico, nel quale la discriminazione è elevatissima del genere femminile. Cioè le donne che cercano lavori e che hanno a che fare con l'informatica, con la tecnologia in generale, hanno più problemi rispetto agli altri campi? Sì, molto di più. Perché? Anche, probabilmente perché è un settore molto maschile, quindi questo porta anche una quantità di uomini maggiore rispetto alle donne, che poi grazie anche al valore di team, di gruppo che hanno poi gli uomini, questo può provocare conseguenze come il mobbing sulle donne. Cioè perché gli uomini fanno più team delle donne in un lavoro come questo che richiede molto lavoro di team? Sì, anche per la caratteristica del genere maschile che è molto più collaborativa rispetto al genere femminile, ma è anche vero che la nostra organizzazione punta proprio su questo, su sensibilizzare le donne a collaborare tra di loro e non a creare, diciamo, violenza di donne su donne. Ecco, ma a parità di preparazione e di competenze, secondo te c'è un pregiudizio culturale alla base del rispetto delle donne nell'ambito dell'informatica, della tecnologia, proprio per questa ragione all'abitudine del lavoro di team o che cosa? Sì, il pregiudizio c'è sicuramente, e provocato proprio dalla storia. Gli uomini lavorano da molto più tempo e anche nel settore tecnologico figure importanti che diciamo hanno raggiunto il successo sono prevalentemente maschili. Guardiamo anche lo stesso Steve Jobs, Bill Gates e Mark Zuckerberg dei nostri tempi. Donne non si conoscono, anche se in realtà esistono. Perché sono partite dopo? Perché sono meno? Perché probabilmente non vengono pubblicizzate o non fanno notizia come può farlo un uomo in questo momento. Probabilmente nel futuro farà notizia la donna. Certo. Senti, tu hai la stessa età più o meno di Paola, che abbiamo sentito prima. Ecco, tu avresti risposto o no alle domande sullo stato di famiglia? Erano lesive, eh? Io avrei risposto, perché secondo me nel colloquio bisogna comunicare la verità, anche perché dall'altra parte c'è qualcuno che fa le domande in relazione alla posizione che deve ricoprire, e le caratteristiche devono uscire fuori dal colloquio. E quindi è una resistenza che è ingiustificata? Secondo me è un pregiudizio, tra virgolette, anche della stessa ragazza, che probabilmente, sensibile alla questione, ha portato fuori, diciamo, questo atteggiamento. Certo. E ti sono capitate domande di questo genere durante i colloqui di lavoro? Cioè sono frequenti? Sì, sì, mi sono capitate, ma anche di altro genere, a seconda della posizione che dovevo ricoprire. Molto spesso sono le donne, tra l'altro, che fanno questi colloqui e molto spesso probabilmente vengono utilizzate le donne per creare più empatia e affinità e quindi poi far uscire fuori la verità dalla persona all'interno del colloquio. Ecco Mario, tu che selezioni molte persone nel settore informatico, appunto, allora com'è un po'? Allora, l'ambiente è sicuramente predominanza, più maschile che femminile, sì, però. Super predominanza maschile, ed è così in tutto il mondo. Negli Stati Uniti c'è anche un problema, diciamo, grosso, che è venuto fuori appunto nella Silicon Valley su questo aspetto. Però è anche vero che il numero di specialisti in quel settore è maschile. Quando trovi sono partiti prima, sono partiti prima, c'è un elemento di quantità anche che è molto forte. Non sono d'accordo sul fatto che per le donne sia più difficile su questo. Non è vero, perché se tu devi fare team, in realtà questo team deve essere vario, con caratteri, uomini e donne, e quindi è bene che ci siano uomini e donne, perché le donne hanno una precisione e delle sfumature nel modo che di arricchiscono lavorare, molto che arricchiscono molto. Cioè, solo uno scemo, adesso detta proprio papale, non assume una donna, e allora è scemo perché non vede quanto può arricchire il suo team, soprattutto in quel settore là, quindi non è possibile. No, vorrei dire che secondo me invece è inevitabile il passaggio di testimone dal mondo maschile al mondo femminile. Certo, è successo in tutti gli ambiti lavorativi, quelli più delicati, quelli della scienza per esempio, sono prevalentemente femminili. Basta citare quella bellissima intervista con la Gianotti. Ma c'è un settore ben preciso, quello della medicina, che era tipicamente maschile, che adesso è diventato prevalentemente femminile, che è quello della neurochirurgia. Anche il giornalismo. Sì, ma c'è un lavoro. Il giornalismo non presuppone la delicatezza e la forza. Vabbè, l'importanza della neurochirurgia. Ecco, secondo la solitamente arrivano a fare i giornalisti, quindi ci mettiamo anche noi, che siamo già praticamente recuperabili. Siamo un caso. Esatto. Secondo una ricerca commissionata dal Fondo Monetario Internazionale, che è guidato da una donna, Christine Lagarde, una donna in più ai vertici di un'azienda, dice la ricerca, migliora la performance finanziaria di quell'azienda. Quindi più donne al lavoro migliorerebbero l'andamento economico delle aziende. Irene Tinagli, che è un economista, deputata del PD, membro del Comitato Permanente per il Lavoro. Onorevole Tinagli, secondo lei, insomma, le quote rosa funzionano, sono il primo passo? Funzionano assolutamente sì, è l'unico modo di fatto per riuscire a creare uno spazio. Certo, c'è da sperare e da augurarsi che non sia necessario averle per sempre, cioè c'è da sperare che sia una misura temporanea per far sì che si crei uno spazio e si aiuti a combattere i pregiudizi e gli stereotipi, certo, che poi dopo diventi un fatto naturale includere le donne anche ai più alti livelli delle organizzazioni aziendali. Ecco, però purtroppo è stato necessario fare questa un passaggio necessario. Ecco, ma chiedere a una donna durante un colloquio lo stato di famiglia è una domanda inopportuna? Sì, nel senso che francamente io in molti paesi dove ho vissuto nessuno si permetterebbe, negli Stati Uniti non si permetterebbero mai di chiederlo, non che sia fatto un divieto esplicito, ma non nessuno lo dice, perché non è rilevante. Io ho sentito anche le sue obiezioni, che sono quelle di molti imprenditori, del tipo io ho bisogno di capire la disponibilità. No, infatti quello dicevo ma, è il punto. Quello si può capire semplicemente facendo la domanda diretta: lei sarebbe disponibile a degli orari di questo genere, certo, a delle trasferte? Naturale. Questo è anche il modo per forse stabilire è il migliore, il rapporto più trasparente, diretto, perché magari ci può essere una donna con figli che però è disponibilissima, o magari ci può essere una donna single o un uomo single che non sono disponibili perché magari hanno altre preferenze, inclinazioni, cioè non è che il fatto di avere i figli debba necessariamente implicare una indisponibilità da parte del lavoratore. Naturale. È questo che il punto. Il punto è questo, ecco, ma secondo lei cambia in un colloquio di questi di assunzione, eccetera, un colloquio fatto da un uomo o una donna a una donna? Sì, potrebbe potrebbe cambiare di fatto, perché ci sono comunque degli stereotipi che rimangono, ci sono delle differenze, magari se fosse una donna a fare il colloquio potrebbe avere, come dire, un livello di empatia, di comprensione maggiore. Certo. Però non è detto. Ecco, onorevole Tinagli, in Francia chi invia un curriculum vitae per un'assunzione lo può compilare in forma anonima per lasciare solo spazio all'esperienza lavorativa, alla formazione, alle lingue, eccetera. Questo è il futuro? Ma questo è quello che avviene già in moltissimi paesi. Io francamente sono vissuto tanti anni fuori, io prima di rientrare in Italia mai ho inviato un curriculum con la mia data di nascita, il mio stato civile, non sono informazioni considerate rilevanti. Quindi questo dipende però anche da un clima culturale, diciamo, complessivo. In Italia forse su questo siamo un po' indietro, ma il futuro deve essere questo. E cioè questo è il futuro, cioè il deve fatto essere valutato sulle competenze. Sul curriculum. Però anche perché guardi che anche gli uomini stanno cambiando molto. No, ma parlo di uomini e donne, infatti, su questo il curriculum vitae, ho detto non delle donne, ho detto il curriculum vitae in generale. Infatti. Cioè, ma un datore di lavoro non è importante che veda in faccia un possibile dipendente per farsi un elemento in più di valutazione, uomo o donna che sia? Sì, questo certamente, l'interazione anche, come dire, personale è importante, però bisogna sempre fare molta attenzione, perché in questo tipo di colloqui eccetera è sempre facile farsi trascinare da stereotipi, oppure farsi fuorviare da domande che non hanno attinenza con lavoro, ma che possono far scattare un'empatia per alcune certo. persone piuttosto che altre, perché ci vuole molta accortezza anche nella gestione del faccia a faccia. Non è facile, certo. Senta, e quindi diciamo che tutto quello che riguarda la sfera personale è meglio che non conti assolutamente sempre in tutti i casi, uomini e donne. Sì, assolutamente, nel senso che poi insomma la persona, il lavoratore che ha le competenze, che ha l'esperienza, che ha la voglia, che ha l'entusiasmo, riesce a conciliare questo indipendentemente se è uomo o donna. E poi insomma comunque il fatto di riuscire a trovare un equilibrio e un rapporto di fiducia col datore di lavoro, tra lavoratore e datore di lavoro, il rapporto di fiducia si costruisce anche così, e a volte anche trovare un equilibrio, una flessibilità aumenta la produttività. Però è vero anche, anche onorevole Tinagli, che dipende dalla grandezza del luogo di lavoro, perché io penso che forse in certe aziende piccole, familiari eccetera, la personalizzazione del rapporto è quasi necessaria. Sì, però ecco, penso che ci debba essere sempre la consapevolezza e l'accortezza del saper distinguere quella che è la performance sul lavoro, che è la dedizione sul lavoro, e quella che può essere una vita privata e personale che naturale, certo, non vabbè, lì c'è il rispetto. Ecco, senta, qualche tempo fa qui da noi a Mix 24 è intervenuto la signora Stefania Brancaccio, che è un'imprenditrice da 40 anni che è a capo della Coelmo, che è un'azienda metalmeccanica di Acerra, dove fra tanti dipendenti lei ha molte donne. Senta cosa ci ha detto, perché è curioso. Ho letto che, a proposito di educazione e di diritti, che lei è molto critica con lo statuto dei lavoratori. Perché è critica? Perché quando io ho cominciato a lavorare, questo statuto dei lavoratori era scritto completamente al maschile. Cioè? E non prevedeva assolutamente questi, se non, ripeto, con leggi che hanno poi vietato l'assunzione delle donne. Perché dando tanti privilegi poi tu bloccavi l'assunzione, cioè, di una donna. Cioè, è tutto privilegiatissimo, allora non ti assumo. Questo sì, era il concetto. Questo poi era il concetto prima, sì. Quindi queste tutele dello statuto dei lavoratori, lei dice che alla fine hanno rovinato le donne. Certo, purtroppo le hanno rese in categoria a parte. Curiosa questa, una donna che assume tante donne e che dice che lo statuto dei lavoratori, perché le tutela troppo, le danneggia. In alcuni paesi come gli Stati Uniti non danno per esempio lunghi periodi di maternità, perché pensano che questo alla fine crei problemi anche magari per le stesse donne, perché chiaramente poi gli imprenditori sono più reticenti ad assumere donne perché sono molto tutelate. Quindi questo è vero, c'è chi ha sollevato questi argomenti. Io credo che un equilibrio lo si possa trovare prevedendo delle misure anche diverse, per esempio consentire consentire alle donne di avere, ma anche agli uomini, di avere degli orari più flessibili, di avere la possibilità di lavorare da casa, di poter quindi anche avere delle forme di lavoro che più facilmente consentono di conciliare, avere degli incentivi e del supporto per quelle donne che magari decidano di rientrare al lavoro magari dopo la maternità obbligatoria, ma senza usufruire dei congedi parentali, ecco, facoltativi, di cui godono molte donne, ma che effettivamente creano dei problemi all'impresa. Il problema è che se in un paese non esistono gli asili nido, non esistono i servizi, ma naturalmente allora, si ricomincia da se zero. Se uno crea le condizioni per cui la donna sia agevolata anche a rientrare prima al lavoro e sia supportata in questo, questo ne beneficiano tutti, anche la donna, perché guardi che stare fuori dal posto di lavoro per 7-8 mesi, a volte un anno, è un danno lavorativo, cioè, e professionale. Senta, un'ultimissima cosa. Voi state lavorando su proposte di legge che vanno in quale direzione? Esattamente in questa che le dicevo. Per esempio, adesso dovrebbe essere approvato a breve il decreto sullo smart working, sul lavoro agile, quindi che consentirà di avere davvero una maggiore flessibilità di gestione degli orari, di lavorare da altri posti, non necessariamente da casa, che rivoluzionerà secondo me veramente il modo di concepire il lavoro, il posto di lavoro, e darà molta più possibilità di conciliare a tutti, uomini e donne. E a che punto siamo? Adesso è in discussione al Senato, poi dovrà passare alla Camera e poi dovrebbe essere, insomma, è ottimista. Quindi io penso nel giro di pochi mesi questo dovrebbe essere un risultato. Sì. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS dopo la pubblicità. Torneremo con i vostri interventi, le vostre telefonate, i vostri SMS, pubblicità. Mix 24. Adriano da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, ciao, ci dica. Niente, volevo condividere la mia esperienza, che è un po' il contrario di quella dell'ascoltatore di prima. Ah, cioè, mi dica. Lei è stata, no? A lei cos'è capitato? Io sono a fare un colloquio come scaffalista lo scorso dicembre e mi è stato chiesto specialmente. La sentiamo male, la sentiamo male. Si avvicina, sì, al telefono per cortesia. No, perché purtroppo sto dentro una gabbia di Lo so, ho capito, ma se non la sentiamo non serve. Scusi, praticamente adesso sentite meglio? Sì, meglio, dica allora, okay. Diceva? Praticamente, mentre facciamo il colloquio, dicevo, se tagliamo adesso il toro, andiamo subito al sodo. Sì. Hai figli? Sì. E io faccio, no, non ce l'ho. Allora guarda, noi te lo diciamo subito, noi preferiamo dare posto a chi ne ha bisogno, a chi ha una famiglia. E fatto, scusate, ma voi a fronte di una persona che è competente, no, che responsabilmente prima si cerca la stabilità e poi fa una famiglia, preferite uno che prima si fa la frusta e poi il cavallo, ma cioè voi cercate una persona di responsabilità. Vabbè, o interessante, una persona ricattabile. È interessante sapere che sono tante proprio le situazioni di nella ricerca di lavoro. Grazie Adriano. Canzone. What I need in your arms, in your arms, what I need, and there's not for me outside your arms, outside your arms. Metropolitana, bracci che diventano convogli, che portano dovunque, perché alla guida c'è un autista chiamato Eros. Porta più lontano dello sguardo e più vicino del respiro, e l'autista dispone un dolce disordine nel viaggio che porta sempre dove si vuole andare. Ha chiamato Cyrano de Bergerac, ha individuato nell'autista Cristiano, e però la dedica, la fa a Roxanne. To the way you pay, to the way you pay, a sweet disarray. Giovanni, tu hai idea? Sempre più complesso. No, no, sono tutti messaggi subliminali. Ma che messaggi subliminali? Se mi chiama Cyrano de Bergerac, che devo fare? Lo so. Chiama sempre solo te, non si capisce come mai. E in metropolitana. C'è il telefono libero? No, perché qua al centralino sanno che c'è un capocomico. Naturalmente. E quindi arrivano. Beh, vabbè, Mario, vai con la tua bolla. Va bene. Allora, stava agitando il suono dei Bee Gees. You should be dancing. E Giovanni, stamattina a Palazzo Chigi Renzi sarà con Marchionne ed Elkan per la presentazione della nuova Giulia. Molti si chiedono: come una volta? Sì, come sempre. Come una volta si presentavano le macchine al Presidente del Consiglio, esatto. Presidente della Repubblica. E uno dice: ma perché Renzi è così attento e disponibile nei confronti? Fa bene, perché in realtà i dati di FCA, la produzione industriale italiana, è legatissima a quella dell'automobile. Sono usciti l'altro ieri i dati delle vendite in America del gruppo Fiat Chrysler. Sono interessantissimi perché aprile è stato un mese record per il marchio Jeep, e voi direte vabbè, no, adesso vedrete che ci interessa molto. Ha registrato un aumento del 17% e il record mensile assoluto è stato per la Jeep Renegade, che è l'ultima annata della gamma della Jeep, che ha registrato, pensate, un aumento del 131% dal lancio di marzo 2015. Tutto questo per dire che quella macchina è prodotta a Melfi, è un prodotto italiano che viene esportato nel mondo. Quindi quando oggi l'industria automobilistica è talmente globalizzata che l'Italia è diventata una sorta di hub produttivo, di piattaforma che poi esporta in tutto il mondo. Quindi è importante seguire questo settore, come noi tra l'altro facciamo sempre. Salamino. Mafia, antimafia, mezza mafia e mafia dell'antimafia. Alfio Marchini, il candidato civico per le elezioni del sindaco di Roma, dice la sua sulle cosiddette droghe leggere. Dice, racconta che il figlio è uscito indenne da un coma perché non ha mai fatto uso delle cosiddette canne e subito... Era la valutazione del medico e subito... dileggiato dai cosiddetti radicali, si ritrova a essere marchiato come mafioso, niente meno che Roberto Saviano, che è il più professionista tra i professionisti dell'antimafia, dei professionisti, agguanta Marchini per la collottola e lo espone alla folla assetata di legalità e dal patibolo di Twitter sentenzia: ignoranza, disinformazione e proibizionismo sono i veri alleati della mafia. Mafia, antimafia, mezza mafia e mafia dell'antimafia, colpi di antimafia, si delegittima chiunque. Ma adesso c'è Tarantella. Adesso c'è anche la mezza antimafia. Non potendo mangiare carne, ci si accontenta di un brodino. E se nel patrino si trovano teste di cavallo tra le lenzuola, nel meraviglioso mondo dell'antimafia, dove le testuzze di capretto e le cartucce da caccia si trovano dappertutto, adesso ci sono pure i cani impiccati, che sarebbe altro che la vendetta di un povero cornuto messa a frutto subito per cavarne nell'ordine. Un vie più di gloria sul fronte della legalità. Quindi, la doverosa scorta, il di poi, la telefonata di Matteo Renzi e, perché no, anche un futuro di parlamentare a Roma sotto riflettori ben più potenti di quelli propri. Di cosa vi stiamo parlando? Della vicenda di Pino Maniaci, apostolo della legalità, martire dell'impegno, santo di ogni beatitudine, che da teleiato la sua televisione di parti inique arriva Ranni, macchina di denuncia di ogni nefandezza, elevava altari alla virtù, ma per nascondere meglio il proprio vizio. C'era, per esempio, disprezzo verso i carabinieri, minacce di scoppa ai sindaci di Borgetta e Partinico e arriveranno per poi cavarne in privato utilità. Al povero Renzi, che lo chiama per i cani ammazzati, commosso per tutta questa vicenda, appena staccata la comunicazione, sapete cosa gli dice? Pure lo stronzo del Renzi mi chiamò. E i poveri cani, poi, non glieli ammazzò Matteo Messina Denaro, ma il cornuto da cui Maniace si prendeva musica. Sì, ma... tutte le utilità. Morale della favola: chi di antimafia ferisce, di mezza mafia perisce, a colpi di 50 euro per estorsione. E se Maritau Rosa 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Sono Usoppo, zona di Rivoli. Tutto a terra, mensa, uffici. Non abbiamo notizie di Gemona. La cosa, diciamo, che è necessariamente necessaria e urgente è l'acqua. Cerchiamo di coordinare pian pianino. Allora, a Buia e a Maiano. Autoambulanza, una ruspa per liberare, perché ci sono bambini all'interno che piangono. Se lo mandiamo su con l'elicottero e i rifornimenti, non vedete di mandarli a piedi, niente da fare. Mi manca l'illuminazione in tutta la zona da Tredicesimo in su, completamente a buio. UTD 3 alle 5. QSL, QSL. Un audio prezioso. Le voci dei radioamatori che danno il primo allarme e chiedono i primi aiuti. Sono le 21.06 del 6 maggio del 76, 40 anni fa, un terremoto del nono grado della scala Mercalli investe 77 comuni del Friuli. Interi paesi sono completamente rasi al suolo, quasi 1000 i morti e ovunque distruzione, dolore e sgomento. Così il 28 dicembre del 1908 a Messina, così il 23 novembre dell'80 in Irpinia e il 6 aprile del 2009 all'Aquila. In Friuli la ricostruzione completa durerà quasi 10 anni e diventerà esempio di caparbietà e rigore. I sepolti e i salvati, i protagonisti, le testimonianze, i sonori originali, l'esperienza umana del terremoto. Qui a Mix 24, i gialli della storia, dopo il giornale radio. Mario, mi hai fatto vedere, avevamo parlato di automobili, sì, della Fiat, eccetera, mi hai fatto vedere sul tuo computer, sì, un'immagine meravigliosa e drammatica. Cioè, della prossima bolla. Cioè, la vai, facciamo? Vai con la bolla. Beh, buona questa, dai, Generation X. Allora, no, ti ho fatto vedere un'immagine di un robot che si chiama Baxter, che ha sembianze da robot, no? Che però ha anche il suo sguardo, eccetera. È prodotto da Rethink Robotics, è una di delle numerose aziende che fanno robot molto intelligenti, ma a un costo abbastanza diciamo abbordabile da parte delle aziende. Quindi non c'è più lavoro per l'uomo nella fabbrica. Sì, è molto interessante. Si vengono chiamati cobots, lavorano in simbiosi con gli umani, cioè anche fianco a fianco. Questo è possibile farlo. E la cosa interessante di questi robot di ultima generazione è che il costo medio è di circa 24.000 euro, secondo uno studio citato stamattina, visto dal Financial Times. E possono cambiare radicalmente il modo di produrre, a questo punto, con costi abbordabili, appunto, di aziende medio-piccole. Allora, un aspetto è quello che ti ho fatto vedere: ti ho fatto vedere una fabbrica dove c'erano solo i robot. Che poi le aziende medio-piccole sono la maggioranza delle aziende italiane. Esatto. E la cosa interessante, però, è che c'è un rovescio della medaglia che può essere positivo. Oggi molte di queste aziende, per abbattere il costo di produzione, cosa fanno? Delocalizzano la produzione fuori. Se io prendo il robot, e non delocalizzo più e tengo i lavoratori. Quindi ci sono degli aspetti di mercato del lavoro, secondo me, molto interessanti. In ogni caso, consiglio alle aziende medio-piccole che hanno un po' di disponibilità finanziaria e voglia di innovare di fare guardare, questa verifica, sì, di fare queste cose qua. Ecco, adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. BMJ, febbraio 2016. Le benzodiazepine aumentano il rischio di demenza? Chi non ha mai consumato il mitico Valium? Il Valium è il capostipite di una generazione di farmaci, le benzodiazepine, che sono state utilizzate per molti motivi, per dormire meglio, per l'ansia, per calmarsi, per le crisi isteriche, gli attacchi di panico, eccetera. Oggi l'utilizzo di questi farmaci è certamente ridotto, per la parte depressiva si utilizzano nuove categorie di farmaci, ma certamente rimane il fatto che le benzodiazepine hanno un effetto sul cervello, perché agiscono sui neurotrasmettitori cerebrali. Allora un gruppo di ricercatori ha voluto vedere se l'utilizzo e il consumo di benzodiazepine provocasse, favorisse il declino cognitivo e la demenza. Hanno quindi seguito oltre 3.400 ultra 65enni per un lungo periodo, un periodo medio di 7.3 anni, e hanno visto cosa succedeva a quelli che consumavano benzodiazepine rispetto a quelli che invece non ne consumavano. Di questi 3.400, il 23% ha sviluppato demenza, ma si è visto che non c'è una correlazione tra l'assunzione di benzodiazepine di qualsiasi tipo e l'insorgenza di demenza, ma i ricercatori finiscono dicendo: va bene, dice, con la demenza e con il declino cognitivo non c'è associazione, ma siccome ce n'è ed è sicura con le cadute, con la frattura di femore e anche con la morte, è evidente che le benzodiazepine debbono essere utilizzate il meno possibile. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Una canzone per ricordare a chi sta andando via che ci sono cose che non si possono portare via. Gino Paoli, Le cose dell'amore. Quando te ne andrai, non potrai portarti dietro tutte le mie cose che ti ho dato, le cose dell'amore non si possono tenere, le cose dell'amore non si possono portare.